La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi 53 secondi dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia come sempre per l'ascolto in diretta o in podcast, e vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it per segnalazione di temi, puntate, critiche, domande, qualunque cosa. Scrivete. In realtà anche la trasmissione di oggi nasce da una segnalazione di alcuni di voi. Vi dico subito di che cosa parliamo oggi. La trasmissione oggi riguarda in realtà quasi tutti, ciascuno di voi, perché riguarda tutti i clienti delle banche italiane. Ora vi spiego perché, e poi anche un sottoinsieme di questi clienti delle banche italiane, che sono i dipendenti delle banche italiane, poco meno di 300.000. E le questioni di cui ci occupiamo sono questioni che tra ieri e oggi sono comparse su molti quotidiani italiani e che derivano da segnalazioni dei clienti bancari. Per la questione dei dipendenti invece c'è stata una dichiarazione oggi nel primo pomeriggio del presidente dell'ABI Patuelli. Di che cosa si tratta? Parliamo della prima faccenda, quella che riguarda tutti noi come clienti delle banche. Nelle settimane alle nostre spalle sono iniziate ad arrivare a segnalazioni ad alcuni giornalisti che si occupano ordinariamente di questioni economiche, finanziarie e bancarie, di alcuni clienti delle banche che iniziavano a segnalare aumenti dei costi di gestione dei conti correnti delle banche. Qui nel Gruppo Sole il primo segnale si ebbe da parte di correntisti del Banco Popolare di Brescia, quindi Gruppo UBI, a fine giugno, e infatti il Sole pubblicò un articolo in cui segnalava la questione. Ora la questione dal gruppo UBI si è estesa, e stamattina infatti quotidiani come La Stampa, ieri pomeriggio L'Inchiesta, giornale online, stamattina La Stampa, Il Giornale, che ci ha aperto con il titolo di apertura, poi durante il giorno sul sito del Corriere della Sera sono comparsi diversi articoli che iniziano a sollevare la seguente questione. Che cosa avviene? Avviene che alcune banche italiane alzano i costi, quindi le commissioni, i costi di gestione dei conti correnti, perché in questo modo recuperano dai propri correntisti le risorse che hanno devoluto al fondo di risoluzione bancaria, quello istituito con il decreto con il quale si avviare una risoluzione nel novembre dell'anno scorso le quattro banche, Banca Etruria, Carichieti, Cariferrara e Banca Marche, in ottemperanza alla direttiva europea, quella che istituisce il principio del bail-in, la BRRD. A questo fondo di risoluzione, che è quello che interviene per sostenere gli oneri delle banche mandate in risoluzione, le quattro banche appunto dello scorso novembre, che oggi non si trova a vendere alla cifra che ci hanno messo il resto di tutte le banche italiane, tutte le banche che hanno residenza legale in Italia sono chiamate a corrispondere una quota a questo fondo di risoluzione, che è gestito dall'autorità di risoluzione presso la Banca d'Italia, e la quota che le banche devono dare è proporzionata, come dice la direttiva europea, alla propria quota di mercato. Ecco, che cosa sta avvenendo? Che alcune banche, come UBI, come Banco Popolare, alzano i costi di gestione ai propri correntisti per recuperare i soldi devoluti al fondo. Vi ricordo che noi abbiamo praticamente impegnato 4 anni, 4 annualità, per risolvere con 1,8 miliardi le quattro banche che da sole costituivano poco meno dell'1% del totale degli attivi bancari, e abbiamo già impegnato praticamente per 4 anni il fondo di risoluzione. È una novità questa del chiedere ai correntisti delle altre banche il recupero dei soldi, che pone dei problemi, e quindi io la domanda che vi faccio è: innanzitutto state attenti, cari ascoltatori, ai documenti che ricevete trimestralmente di solito dalla vostra banca, date un occhio all'aumento, se ci sono aumenti dei costi di commissione, perché se ci sono aumenti che vi insospettiscono, deve essere esplicitamente dichiarato il motivo per il quale la banca vi chiede di corrispondere, cioè meglio, vi trattiene un aumento, vi trattiene una quota più elevata per le spese di gestione dei conti. E state attentissimi, perché la banca vi deve dire esplicitamente, secondo le nostre norme vigenti, che voi siete liberi di non accettarlo e avete il diritto di recesso entro 2 mesi senza pagare un accidente di niente in più, e nel frattempo cercando un'altra banca che non pratichi queste stesse condizioni. La domanda quindi è: cari ascoltatori, vi sta capitando qualcosa di simile? A che banca siete? Esercitereste il diritto di recesso? Tenete conto che gli aumenti vanno dai 25 euro al Banco Popolare ai 12 euro che era il caso Banca di Brescia, di UBI, e nel caso di Banco Popolare questo aumento scatta alla chiusura del conto. La chiusura del conto che cos'è? Non è l'estinzione del conto, è il momento nel quale di solito trimestralmente vengono addebitati gli interessi positivi e negativi sul conto, e allora tac, scatta la trattenuta straordinaria. E quindi c'è un problema innanzitutto di legalità, no? Della comunicazione, ma c'è anche un altro problema di legalità in generale. Ma siamo sicuri che questo meccanismo sia perfettamente legale? Perché il decreto che istituisce l'autorità di risoluzione presso la Banca d'Italia, il fondo di risoluzione, non dice assolutamente nulla della facoltà per le banche di rivalersi sui propri correntisti. E c'è un problema, infatti, di logica che non torna in questa misura. Ma come? Noi adottiamo la direttiva europea, la BRRD, che accolla, no, il più dei costi di risoluzione agli azionisti delle banche che vanno in soluzione, che azzerano le loro quote, ai creditori della banca, secondo una certa gerarchia, lo avrete capito ormai più o meno tutti dopo un anno, innanzitutto chi ha le obbligazioni subordinate, i creditori subordinati, poi nel caso sia gravissima la crisi si può arrivare anche ai correntisti, ma della banca risolta, ma comunque solo per la quota eccedente i depositi di 100.000 euro. E nelle quattro banche di cui stiamo parlando, nelle quattro banche, noi è vero, abbiamo azzerato gli azionisti, abbiamo disposto per legge in Parlamento il rimborso, anche se non è ancora avvenuto perché i tempi sono lunghi, di una percentuale elevatissima degli obbligazionisti subordinati, non abbiamo toccato i correntisti, e io di questo sono anche felice, e nel frattempo però facciamo pagare la cifra ai correntisti delle altre banche che non sono andati in soluzione perché gestite meglio. Ma capite che c'è qualcosa che non torna da questo punto di vista, dal punto di vista della logica. Quindi telefonateci per segnalare l'eventuale problema e affronteremo i problemi innanzitutto della trasparenza, con la spiegazione che cosa la banca è tenuta a dirvi, B, che cosa voi potete fare se non ve lo dice, C, ma anche il problema più generale della legittimità, perché qui le banche lo stanno facendo. Io immagino che Banca d'Italia lo sappia, non dice nulla a queste notizie. A me non torna la logica, però, che senso ha non toccare i correntisti delle banche andate in soluzione e chiedere i soldi alle banche, ai correntisti degli altri? A me non torna per niente. Può essere che io mi sbagli, come al solito. Seconda questione: oggi pomeriggio il presidente Labbia Patuelli per la prima volta ha chiesto esplicitamente al governo di finanziare il fondo per la gestione super dei dipendenti bancari. Fino a questo momento, in tutti questi anni, il sistema bancario era molto fiero di dire che gli esuberi venivano gestiti in maniera cooperativa, finanziati dalle banche. Evidentemente così non è, non basta più. Ricordo che poche settimane fa Renzi si lasciò sfuggire di bocca una frase che fece sobbalzare i dipendenti bancari e i sindacati bancari, perché dice: ma qui ci sono altro che 300.000, ce n'è la metà di troppo dei dipendenti bancari. Cosa vuol dire dunque questa dichiarazione del presidente dell'ABI? Siccome risultavano già 28.000 bancari rispetto ai poco meno di 300.000 in uscita attraverso prepensionamenti di qui al 2018, significa che quante altre decine di migliaia bisogna aspettarsene? Ecco, altra questione: se siete dipendenti bancari, diteci come la pensate. E se avete un po' di timore oppure no. Comunque, cominciamo, mettiamo insieme queste due questioni, ma cominciamo da quella che riguarda la platea più ampia, cioè tutti voi correntisti. E con noi l'avvocato Piero Cecchinato, che è esperto di diritto bancario. Io lo ringrazio di essere con noi. Buonasera, buonasera. Ed è con noi anche il segretario della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, Lando Maria Sileoni. Grazie di essere ai nostri microfoni oggi pomeriggio, segretario. Grazie a lei. Cecchinato, dice secondo lei, innanzitutto partiamo dalla questione, ma è coerente col decreto che istituisce lo strumento di risoluzione, questo meccanismo di recupero dei correntisti, secondo lei? No, secondo me assolutamente no, perché se ci prendiamo la direttiva europea, quella del 15 maggio del 59-2014, dei riferimenti, che è la direttiva che ha trovato attuazione poi nel decreto, certo, del decreto che lei ha citato. E se ci andiamo a guardare i considerando di quella direttiva, i considerando sono le premesse che fotografano il contesto in cui la normativa europea si inserisce, certo, e quali sono gli obiettivi che vorrebbero perseguire. Ecco, se ci guardiamo quei considerando lì, vedremo che uno degli scopi principali perseguiti dal legislatore comunitario è stato quello di evitare di addossare costi contribuenti. Esatto. Questo è scritto in maniera chiara in diversi punti dei considerando. Io adesso ho in mente il considerando. No, ma questo è esplicito, è il motivo per il quale la direttiva serviva a fare stop rispetto agli interventi della finanza pubblica che si accollava agli oneri di soluzione. È esplicito ed è esplicitato in diversi punti della direttiva, per cui è abbastanza chiaro che questo... Però le banche possono dire: questi sono i nostri clienti, non i contribuenti. Assolutamente sì. I costi, una risoluzione che dovrebbe riguardare invece solo ed esclusivamente i correntisti di quell'istituto che viene risolto. Dopodiché c'è un problema di trasparenza che è molto importante. Quindi aspetti, secondo lei, dallo spirito della direttiva europea che viene recepita negli articoli del decreto che istituisce il fondo di risoluzione presso la Banca d'Italia, viene recepita esplicitamente nei meccanismi del finanziamento sia ordinario che straordinario del fondo di risoluzione, esclude la possibilità che altre banche possano rivalersi sui propri correntisti per la propria quota di finanziamento del fondo di risoluzione? Secondo lei è escluso, cioè potrebbero esserci anche ricorsi in punta di legittimità? Cioè io non è chiaramente non è espressamente escluso, però io utilizzerei assolutamente la direttiva e il decreto, lo spirito della direttiva che ha fotografato proprio nel considerando, io lo utilizzerei assolutamente per contestare l'inefficacia dell'applicazione. Ok, quindi assolutamente. Intanto c'è già un parere legale secondo il quale c'è un problema di legittimità in generale a fare questo problema. La trasparenza? Allora, l'articolo 118 del testo unico bancario consente alle banche di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali applicate. Si tratta dello ius variandi. Le banche lo possono fare però soltanto se sussiste un giustificato motivo. L'articolo 118 onora la banca di comunicare con un preavviso di almeno 2 mesi dal momento in cui si pretenderebbe di far entrare in vigore le nuove condizioni, di comunicare al cliente questa circostanza e di farlo in maniera non generica, e di farlo in maniera invece dettagliata, precisando quali sono le ragioni che giustificherebbero dei maggiori costi a carico del cliente. Il cliente, ricevuta questa comunicazione, avrà la possibilità poi di recedere senza spese a costi zero dal rapporto, come diceva lei prima, per cercare degli altri operatori bancari che non abbiano questo genere di condizioni. Che cosa si intenda per giustificato motivo è qualcosa su cui non c'è unanimità di vedute in giurisprudenza, però è abbastanza chiaro che il giustificato motivo riguardato dal lato del cliente, utente di servizi bancari, potrà più riguardare delle modifiche di condizioni, delle modifiche della situazione macroeconomica in generale, che incida pesantemente, ma veramente pesantemente, sulla gestione bancaria. Perché sono molte, però anche al tempo stesso, le decisioni dell'arbitro bancario finanziario, che è un organismo di istruzione giudiziaria delle controversie, sì, tra utenti e banche, che dicono che in astratto sì, la modifica, la crisi finanziaria e la modifica pesante. Oppure, che ne so, l'abbattimento del margine di intermediazione dovuto alla politica dei tassi interesse, sì, zero. Questo è espressamente preso, certo, in considerazione dall'ultimo comma del 118. Però in questo monetaria. Caso il problema è un onere invece di finanziamento di uno strumento di risoluzione, non c'entra con la politica monetaria. Infatti, ma tra l'altro tutte quelle decisioni dell'arbitro bancario finanziario che dicono che in astratto si potrebbe considerare ammissibile una modifica di questo genere, e dicono poi anche però che puniscono spesso le banche, dicendo che però l'applicazione che ne ha fatto in concreto la banca nella comunicazione inviata al cliente è stata eccessivamente generica. Cioè parlare genericamente di crisi finanziaria non è mai stato considerato sufficiente per rendere legittima l'applicazione di quel maggior costo. Allora, c'è sintesi, c'è un problema sicuramente c'è un problema in termini generali di legittimità nel rivalersi sui correntisti delle banche, quando non tocchiamo i correntisti neanche delle banche che vanno in risoluzione, e c'è un problema anche di applicabilità del diritto a variare le condizioni, che esiste ed è normato nel nostro ordinamento bancario, dando i 2 mesi e la possibilità del diritto di recesso al cliente ben informato, di andare oltre senza oneri, di andarsene via senza oneri. Ma c'è un problema anche di applicabilità a questo della fattispecie per cui le banche italiane che vi ho citato lo stanno attuando, cioè per un finanziamento di uno strumento cooperativo che non ha a che vedere con i motivi ordinari, per cui l'arbitro bancario di solito dice ok, potete farlo se il cliente è d'accordo. Già mi pare che abbiamo messo dei seri, fondati e motivati dubbi, non c'è alcuna pretesa dalla parte dell'avvocato che abbiamo qui oggi di rappresentare l'intero pensiero giuridico italiano. Immagino che le banche la pensino diversamente, devo interpretare dal silenzio della Banca d'Italia che la Banca d'Italia lo pensa diversamente, cosa che a me preoccupa un pochino, però insomma c'è motivo di che essere preoccupati, cari ascoltatori. Adesso mettiamo questa questione da una parte, tra un minuto torniamo dopo il traffico e sentiamo dal segretario della FABI che cosa il segretario della FABI pensa di questo e che cosa pensa poi della dichiarazione di Patuelli di oggi in relazione alla dichiarazione di Renzi di qualche settimana fa. Tra un minuto. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta. Abbiamo visto che esistono fondati dubbi di legittimità sul fatto che banche italiane inizino a rivalersi su, aumentando i costi di gestione dei propri correntisti, delle quote che versano per il fondo di risoluzione, quello utilizzato per le 4 banche a novembre dell'anno scorso. Lì i correntisti non li abbiamo toccati, li tocchiamo nei correntisti delle altre banche, che senso ha? E poi seconda questione, il presidente dell'ABI che dice al governo no, non ce la facciamo più da soli a finanziarci i prepensionamenti e la gestione degli esuberi del personale bancario, e lo Stato ci deve aiutare, quindi finisce l'autonomia, per così dire, finanziaria con cui le banche si risolvevano il problema. Allora Sileoni, il segretario della FABI, lei innanzitutto, capisco, per un sindacato non è il problema fondamentale, ma lei che dice delle banche che aumentano i costi di gestione per rivalersi delle quote del fondo di risoluzione bancaria? Guardi, faccio 2 considerazioni. La prima, che non sono tutte le banche, ma sono certo che per esempio Intesa San Paolo, Montepaschi e BPM ancora non hanno fatto questo aumento, no? Il secondo è un aspetto politico dal mio punto di vista estremamente importante, cioè non deve passare il concetto, lei ha spiegato tutto molto bene, ma non deve passare il concetto, e bisogna essere chiari con chi ci ascolta, non deve passare il concetto che vengono aumentati i costi rispetto al conto corrente per poter poi finanziare gli eventuali esuberi, perché corriamo il rischio che poi la gente che ci ascolta... Questa ha ragione. Ecco. Il secondo aspetto, Patuelli, lei non ci crederà, forse è una delle poche volte che do ragione a Patuelli, ma Patuelli ha completamente ragione. Tra l'altro lo stesso presidente dell'ABI ha fatto nostra una proposta che abbiamo fatto noi il 15 di agosto, che è stata ripresa un po' da tutti, cioè la dico in maniera molto semplice. Allora, da oltre 20 anni le banche versano 200 milioni di euro all'anno per finanziare l'indennità di disoccupazione di altre categorie. Certo. Ecco, e non hanno mai utilizzato, non hanno mai avuto nessun tipo di ritorno da questo finanziamento. Va bene? Allora, io le faccio una domanda. No, e a questo aggiungevano il finanziamento degli strumenti necessari per gestire invece i propri problemi nel mondo bancario. Esatto, cioè. Esatto. Quindi c'era un duplice sforzo a livello finanziario. L'altro aspetto fondamentale, il governo fa un decreto legge a maggio e fa passare il nostro ammortizzatore sociale, il fondo esuberi, che c'ha permesso di gestire attraverso prepensionamenti volontari negli ultimi anni oltre 40.000 prepensionamenti volontari, passa la durata del fondo da 5 a 7 anni. Allora il ragionamento che noi come sindacato e l'ABI facciamo è il seguente: siccome per 20 anni le banche hanno finanziato l'indennità di disoccupazione di altre categorie e aggiungo io hanno fatto bene, lasciateci a noi del settore per 3 anni questi 200 milioni, che sarebbero 600 milioni di euro, che vanno a confluire nel nostro ammortizzatore sociale, che è il fondo esuberi, per poter gestirci in piena tranquillità tutte le prossime fusioni e tutte le eventuali aggregazioni che nasceranno da oggi in poi. Visto che tutti dicono che il cambio del modello di gestione e l'abbassamento del cost income, cioè dei costi fissi, è una sfida che vale per l'economia di tutto il paese, quindi ha un senso. Ma il governo cosa ha risposto? Il governo per adesso ha risposto perché in un convegno, tra l'altro, di qualche giorno fa della FISAC e CGL, la CGL bancaria, sono intervenuti due parlamentari, due sottosegretari, uno è stato l'onorevole Baretta, che ha dato una disponibilità di massima, l'onorevole Baretta la delega per le banche. Per le banche. Ha dato una disponibilità di massima per quanto riguarda eventuali finanziamenti di quella che noi chiamiamo la solidarietà difensiva. Dà un contributo, ma non dà il contributo necessario che ci permette di gestire la crisi del settore a livello. Mentre altri personaggi autorevoli dello stesso governo hanno detto: no, questi soldi a noi servono perché dobbiamo continuare a finanziare l'indennità di disoccupazione di altre categorie, e quindi non possiamo per 3 anni, ma neanche per 1 anno. Sospendere, permettere questi 200 milioni che dal sistema vanno. Esatto. Allora, io la ringrazio perché ha chiarito, innanzitutto, ma credo che i dipendenti lo sapessero magari, però ha chiarito a tutti qual è la questione. Se noi chiediamo un grande efficientamento del modello bancario, tecniche di gestione, tecnologia, eccetera, eccetera, e con le fusioni si creano esuberi, bisogna che in qualche modo ci sia una soluzione per il problema. Quindi lei l'ha chiarito benissimo. Vediamo un po' di nostri ascoltatori in che condizioni si trovano per le segnalazioni che ricevono dalle loro banche. Federico da Roma, Federico, prego. Sì, buonasera Giannino, grazie per avermi richiamato. Sono un correntista, un ex bancario, tra l'altro. Primo un augurio, mi auguro che le banche non seguano a tutti i costi il metodo McKinsey, che prevede digitalizzazione, esuberi bancari e tagli al personale, perché stanno facendo tutto questo, stanno seguendo questo metodo qua, e soprattutto affidare le consulenze a McKinsey. Questi sono i 4 punti fondamentali che McKinsey prescrive alle banche e pare che stiano seguendo. Comunque va bene, questo è un discorso. Da correntista le devo dire che ho una banca che si professava la più gratuita in assoluto e che da dicembre invece imputerà dei costi. Questo sinceramente ovviamente... Ma le ha spiegato in maniera dettagliata il motivo? Guardi, sono impreparato sulla domanda perché sinceramente adesso non me la ricordo la lettera, sono rimasto deluso. Vada a rileggerla. Sicuramente controllerò, però io mi auguro che questo possa causare uno spostamento di masse verso chi prima di tutto lavora meglio e fa pagare il giusto, non quindi, fa pagare niente. No, le dico questo perché molti ascoltatori dicono: ripeti i nomi delle banche. Le banche che risulta che lo hanno deliberato sono l'UBI nella ragione del 12%, il gruppo UBI, e il gruppo Banco Popolare nella ragione addirittura dei 25 euro, non del 12%, 12 euro, perdonatemi, UBI, e 25 euro per il Banco Popolare. Attenzione, noi stiamo vivendo un rincaro comunque dei costi di gestione che è stato calcolato da Corriere Economia del 6% dall'inizio dell'anno, cioè molte banche stanno comunque praticando aumenti del costo. Voi dovete stare attenti che vi dichiarino ragione vera. Per esempio Unicredit ha ritoccato alcuni costi di conti di gestione. Che banca, di Mediobanca, sta facendo la stessa cosa? Ma voi dovete andare a vedere qual è la ragione precisa per decidere se impugnare o meno. E noi stiamo parlando di chi lo sta facendo, le prime due banche, UBI, Banco Popolare, dicendo questo ci serve per il finanziamento del fondo di risoluzione. Nicola da Padova, prego Nicola. Io le confermo che Banco Popolare a fine anno darà questo ulteriore pagamento ai correntisti. Ne parlavo ieri proprio con un mio amico dipendente della banca e si trova veramente a disagio anche nel confermare questi clienti. Ma le dico, mi spaventa il fatto del silenzio governativo. Bravo. Della Banca d'Italia innanzitutto, perché il regolatore è... è un'espressione privata, però è la salvaguardia dei nostri conti correnti. Abbiamo visto come ha operato nei confronti dei controlli sulle banche venete, di cui insomma io sono molto vicino, perfettamente a conoscenza. Il problema è proprio di questo silenzio del governo, di azioni governative, quando delle banche private danno degli ulteriori balzelli ai correntisti. Che sono per una ragione di sistema che viene da un'istituzione che è stata posta con decreto legge. Giuseppe dalla provincia di Vicenza mi manda un sms, dice: anch'io ho ricevuto la comunicazione, il contributo di 25 euro, quindi Banco Popolare per il 2016. Quando ho chiesto spiegazioni in banca mi hanno detto che ai clienti più fedeli verrà restituito il tutto a inizio 2017. Ma come ai clienti più fedeli? Giuseppe, fatelo mettere per iscritto, richiamami che ne facciamo un'altra di trasmissione.